Bene, questa che abbiamo ascoltato è la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, il programma che viene mandato in onda, cioè che viene eseguito in diretta radiofonica ogni giovedì, qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Andremo avanti fino alle ore 20, 21 e 30. E il programma ovviamente è iniziato ora alle 20:05. Andiamo così, anzi, vabbè, dovrei dirvi anche che questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Udine, Trieste, Friuli. E vabbè, poi ci sono i nostri contatti che comunque li diremo più avanti. E ora andiamo all'ascolto di questa band italiana. Loro sono gli Infarto Saiste, che comunque hanno le loro uscite discografiche per una etichetta tedesca che tra l'altro si chiama Erode Records. E comunque è un album del 2004 e noi ci ascoltiamo un paio di brani. Oh, E in sottofondo stiamo ascoltando ancora questa band, Infarto 6, cioè scusate, da Infarto 6, e album del 2004, comunque band che non credo ancora esistente, e comunque era, come ho detto, una band che ha fatto queste uscite discografiche per un'etichetta tedesca, e loro sono dell'area di Bergamo. Precisamente nel comune di Paluzza ho partecipato a un'assemblea indetta dal comune per la presentazione di quanto stava facendo la SIOD, non del progetto, ma del fatto che il progetto fosse stato presentato in regione e non messo a conoscenza del comune di Paluzza. Quindi l'assemblea è servita per organizzare poi una protesta, e oggi siamo qui alla manifestazione in piazza contro la costruzione di questo impianto di cogenerazione, che tra l'altro funziona a metano. La SIOT infatti ha presentato il progetto, deve essere ancora fatta la valutazione di impatto ambientale eccetera, e comunque i sindaci hanno fatto già le opposizioni e chiedono a noi che abitiamo qui, insomma, di dare una mano nella protesta. Chiaramente è solo l'inizio. Si punterà a non far passare per niente questo progetto. Allora, la SIOT è la società italiana Oleodotti Trieste, che ha già qui a Paluzza una centrale operativa. Si tratta di un ampliamento di questo impianto. Verranno costruiti, sia dal punto di vista visivo, saranno costruiti due cammini alti che comunque qui rovinerebbero anche il paesaggio, ma al di là del rovinare il paesaggio, poi ci sono delle emissioni tossiche, delle emissioni rumorose, e sì, non dovranno schierarsi contro questo progetto ovviamente solo quelli che vivono vicini, perché sentono i rumori, respirano i fumi, ma tutti quanti, perché è nell'interesse di tutta la comunità montana che non vengano a distruggere l'ambiente che c'è qua su. We'll be right back. Serve esclusivamente alla SIOT per poi fluidificare il petrolio, a quanto ho capito io, adesso non sono un'esperta, nella loro centrale, quindi serve esclusivamente a loro, cioè. Non ha nessun beneficio, poi il comune si chiedeva come compensativi, se ci saranno dei compensativi eccetera, per quello la protesta deve essere più nelle mani della popolazione che non del comune, che poi magari tratta con la SIOT, cioè per ora no. Poi vediamo come evolveranno le cose. Per quello dico, le premesse sono queste, però le cose potrebbero anche cambiare. Sì, perché qui in Carnia c'è la SECA come fonte energetica, che è la società che ci fornisce l'energia elettrica a quasi tutti quassù. Anzi, quella sera della riunione c'era anche il presidente della SECA, appunto, che ha detto che loro non forniranno, cioè non c'entrano niente con questa centrale, non forniscono già loro l'elettricità per la centrale. Ma devo dire che l'assemblea comunque non era molto gremita di gente, c'erano appunto più politici, tutta la giunta comunale eccetera, mi sono meravigliata che ci fosse poca gente, insomma. Sì, è solo l'inizio, poi appunto questa cosa è girata con WhatsApp per far sapere la data dell'assemblea, pochi hanno saputo, dopo adesso noi stiamo cercando di spargere la voce, poi si vedrà, insomma, sperando che la gente si tiri vicino. Come hanno detto, tanti non erano qui oggi, ma oggi c'erano anche varie cose. E poi di domenica è un giorno un po' sfortunato, perché se fosse stato di sabato e domenica la gente è, insomma, lo in giro, poi c'erano appunto vari avvenimenti. Ma anche sono scoraggiati a partecipare all'assemblea, perché sì, hanno ancora la fobia, esatto. Vengono con la mascherina, mettono anche la mascherina, non sai se puoi entrare o se c'è ancora questo condizionamento qui, no? Sì, e un saluto anche da parte mia, siamo sempre su Jardins Magnetics, anche se appunto la musica che avete ascoltato fino a qualche secondo fa magari poteva far pensare a un'altra trasmissione, visto che non pestava. E allora, la voce appunto che avete ascoltato era la voce di una compagna che abita in Carnia. Domenica 5 giugno c'è stata questa così mobilitazione, come spiegava bene lei, contro questo progetto, insomma, di costruzione e esercizio di una nuova stazione di cogenerazione che dovrebbe essere realizzata dalla SIOT, da questa società. E siamo andati, anche qualcuno di noi insomma è andato su a sentire, anche a così per farsi un'idea insomma di qual è la situazione, e anche per dare manforte alla protesta. E come diceva bene insomma la compagna, per il momento siamo solo all'inizio, c'è questa cosa grave della regione che prende accordi praticamente con la SIOT senza nemmeno interpellare nemmeno, non informando assolutamente la popolazione, ma nemmeno interpellando gli enti locali più interessati, cioè i comuni, che sarebbero i comuni di Paluzza e Cercivento. Ad esempio il comune di Paluzza è stato avvisato solo a procedimento avviato e mi sembra che Cercivento nemmeno era stato chiamato in causa, e quindi c'è questo elemento, insomma, di, diciamo, di una regione che spinge. Difatti, si, così chiacchierando poi quel giorno, si diceva probabilmente ancora, cioè non c'è una notizia ufficiale, ma probabilmente anche questo progetto nocivo, insomma, che hanno in mente è legato al PNRR, che non prevede appunto procedure precise, ma tende a velocizzare la realizzazione, l'approvazione e poi la realizzazione di progetti, appunto, di grandi opere o comunque di progetti a forte impatto ambientale, come sarebbe questo, con la scusa del sì, di produrre appunto energia, no? E quindi questo aspetto, insomma, grave. E poi appunto la compagna evidenziava anche questo difficoltà, diciamo, di per il momento questa situazione, un po' di difficoltà nel coinvolgere la popolazione, la partecipazione popolare, e questo appunto non è semplice, visto da che situazione veniamo, insomma, da che 2 anni veniamo. Da parte mia posso dire che conoscendo abbastanza persone così presenti, ho notato la presenza di persone che hanno una sensibilità no Green Pass, che hanno partecipato anche alle mobilitazioni no Green Pass, e questo fa ben sperare, nel senso che si crea un collegamento, un doveroso collegamento, insomma, tra tutti questi elementi, tra lo stato di emergenza, la appunto militarizzazione dei territori e questa spinta capitalista sfrenata sullo sfruttamento dei territori stessi. E, boh, questo insomma sulla Carnia, quindi siamo all'inizio, vi terremo informati. Questo fatto, insomma, che succede in Carnia, a poi cioè, lo mettiamo in collegamento con altre cose, con altre lotte, e nello specifico a Trento e poi in Sicilia. Però magari prima ascoltiamo un po' di musica. RAV, riarmo, controllo digitale. Se questa è la ripartenza, tiriamo il freno d'emergenza. Assemblea no Green Pass Trento. Questo era uno striscione con il quale appunto l'assemblea no Green Pass di Trento ha partecipato a un corteo cittadino, un corteo cittadino contro praticamente la circonvallazione TAV-TAC, e che si è svolto il 2 aprile scorso, 2 aprile 2022. Allora i compagni dell'assemblea contro il Green Pass di Trento ci chiedono perché uno spezzone contro il Green Pass e lo stato d'emergenza al corteo cittadino del 2 aprile salviamo Trento dalla circonvallazione, e rispondono con un volantino che è stato distribuito quel giorno e che leggerò. Per la tutela della salute. Siamo convinti che il Green Pass non tuteli la salute pubblica. Ora i suoi stessi promotori sostengono la realizzazione del TAV in Trentino, opera che inciderà direttamente sulla salute collettiva attraverso la compromissione delle falde acquifere, l'aumento delle polveri sottili e dell'inquinamento acustico. I lavori nell'area ex SLOI, in assenza di una doverosa bonifica, solo per fare qualche esempio. In questi 2 anni abbiamo capito che la nostra salute si basa su molti fattori. L'ambiente in cui viviamo ne è una parte fondamentale. Difenderlo significa difendere noi stesse e noi stessi e viceversa. E poi, perché uno spezzone contro il Green Pass in questa manifestazione contro la circonvallazione a Trento? Per la difesa degli ecosistemi, proteggere il territorio non è solo una questione di salute umana. Le logiche del profitto e della circolazione delle merci non si sono mai fermate durante l'emergenza degli ultimi anni. Tutt'al più sono state riorganizzate verso nuovi settori strategici. Dire no all'alta velocità per noi significa anche rifiutare l'efficienza degli scambi commerciali, rifiutare l'espansione dei modelli produttivi che stanno minando la stessa possibilità di esistenza di questo pianeta, degli ecosistemi e delle forme di vita che lo abitano. E poi ancora, per togliere le basi materiali alla guerra. Dopo 2 anni di guerra al virus, coprifuoco, commissari straordinari in mimetica, adesso è il momento della guerra vera e propria. I progetti di infrastruttura ferroviaria come la TAV-TAC rientrano anche nei piani strategici NATO per corridoi logistici attraverso cui muovere mezzi, materiali e uomini. Una ragione in più per opporsi alla loro realizzazione. Quindi, per uscire dalla logica dell'emergenza e delle decisioni calate dall'alto, la circonvallazione di Trento è finanziata dal PNRR. È per rispettare le tempistiche di questo enorme piano di finanziamenti che il dibattito pubblico locale è stato compresso, sacrificato e trasformato in farsa. Gli ultimi 2 anni ci hanno tristemente abituato a subire decisioni unilaterali, prese sull'onda dell'emergenza. Logica che sembra ormai far parte del nostro vivere quotidiano. Non c'è spazio per riflessioni attente, per applicare un sano principio di precauzione. Ogni forma di contestazione è demonizzata e repressa. È successo agli studenti che protestavano contro l'alternanza scuola-lavoro, ai lavoratori che scioperavano e facevano picchetti, ai movimenti ecologisti e a tanti altri. Vogliamo poter incidere su ciò che ci riguarda, contro una gestione securitaria e verticale di questioni che ci toccano tutte e tutti. Perché in fondo crediamo che la lotta sia solo una, quella per una vita piena e libera, per l'autodeterminazione dei nostri corpi e delle nostre esistenze, per la fine di ogni sfruttamento. Per questi motivi partecipiamo a questo corteo e contestiamo attivamente la realizzazione della circonvallazione di Trento. No TAV, no Green Pass, no stato di emergenza. Questo era appunto il volantino che è stato distribuito il 2 aprile scorso dall'assemblea No Green Pass di Trento a questa manifestazione, questo corteo cittadino Salviamo Trento dalla circonvallazione TAV-TAC. E appunto, per rimanere in sintonia con il ragionamento sulla necessità di unire le lotte e di avere ben coscienza di quello che sta succedendo. Questo volantino lo potete leggere insieme a molti altri materiali in un opuscolo che si chiama Per restare umani, che è appunto una raccolta di testi, materiali e iniziative realizzate dall'Assemblea No Green Pass di Trento, e che potete andare insomma a scaricare sul blog Il Rovescio. E intanto anche vi presento questa band che abbiamo già prima ascoltato un brano, ma poi anche l'abbiamo lasciati in sottofondo durante l'intervento. Questa è una band tedesca, questo è il loro ultimo album uscito nel 2008, anzi uscito questo disco la band si è sciolta, e loro comunque sono della zona di Lipsia e si chiamano Perth Express. Sì, siamo sempre su Zardins Magnetics e continuiamo questo filo di ragionamento sulle lotte contro le nocività capitali, e andando in Sicilia e per anche così un po' presentare, perché è un opuscolo molto, molto valido. E questo opuscolo si intitola Capitalismo resiliente, uno sguardo siciliano su estrattivismo e nocività del New Green Deal, e è stato prodotto, insomma autoprodotto, dalle autoproduzioni Scirocco @autoproduzione.net, e potete andare a leggere questo che vi leggerò anch'io adesso nel blog Scirocco Madonie noblogs.org. E allora, praticamente, all'indirizzo scirocco@autoproduzioni.net poi potete anche chiedere se volete la copia cartacea. Allora, ci dicono gli autori: il lavoro raccolto in queste pagine ha trovato il suo slancio iniziale nella volontà di fornire strumenti di analisi e di critica che potessero concretizzarsi in forme di resistenza attive delle popolazioni locali contro l'eventualità di un deposito permanente di scorie nucleari, la cui costruzione è stata annunciata un anno fa, in pieno periodo di emergenza sanitaria, e non a caso, proprio quando le strade svuotate con la paura del contagio prima e della repressione poliziesca poi avrebbero e hanno permesso l'avanzare senza ostacoli di una serie di progetti mortiferi, 5G compreso. Ci è parso allora necessario e urgente muoverci, a prescindere dalla ricaduta effettiva del sito sul territorio che abitiamo, per avere il tempo utile ad allargare gli orizzonti, tessere nuove complicità e prepararci alla lotta. L'opuscolo non ha visto la luce per vari incidenti di percorso, ma a distanza di un anno, con lo scoppiare di un'ennesima guerra che minaccia stavolta di farsi mondiale, pensiamo che il materiale messo insieme e rivisto rimanga valido nelle sue premesse e utile nel contribuire allo slancio necessario a uscire dalla passività e rischiare ancora e sempre il tentativo della liberazione. E quindi ci dicono i compagni siciliani a Catatavillu. Introduzione. Siamo convinti che qualsiasi agire abbia bisogno di prospettive concrete per manifestarsi e che la prospettiva di chi vuole liberarsi non può non partire dall'analisi delle strutture del dominio, tanto in una dimensione temporale quanto in una spaziale e geografica. Sul primo punto, riguardo all'analisi delle strutture del dominio, se proviamo a leggere cosa ci riservano i piani del potere per il futuro, vediamo l'accentuarsi ad un ritmo esponenziale della natura energivora e biocida del sistema capitalistico. Se non si guarda con occhio ideologico, appare evidente come TAV dappertutto, 5G, data center e una lunga lista di eccetera, comporteranno un aumento enorme della quantità di energia richiesta. La cornice concettuale che adottiamo è quella dell'estrattivismo, termine proposto da Raoul Zibecki per descrivere le politiche di rapina del capitalismo globale ai danni del sud del mondo. A chi storcerà il naso per l'utilizzo indebito di questa categoria riferita a una regione periferica d'Europa, rispondiamo che l'enormità dei cambiamenti in corso stanno avendo, questa è la nostra opinione, conseguenze anche sulle geografie dello sviluppo e del sottosviluppo e quindi sulla distribuzione della violenza sottesa. Vogliamo anche spingerci oltre. È per effetto di una vera e propria manipolazione ideologica che le regioni del Sud Italia non vengono considerate colonie interne, ieri d'Italia e oggi d'Europa. Se la presenza delle scorie non è scindibile dalla produzione di energia, non può bastare oggi opporsi alle nocività già prodotte nei cicli passati. Occorre anche riconoscere il processo a monte, cioè criticare e agire contro la presunta neutralità della dichiarata necessità di energia. Il lavoro che segue vuole essere un aggiornamento ed uno strumento in prospettiva per chi ritiene che riprendere le ostilità verso un sistema economico assassino e biocida coniughi saggezza, istinto di conservazione e passione per la libertà. Nella prima parte dell'opuscolo affronteremo questioni più generali che rimandano da un lato al clima di catastrofe che si respira, alla sua difficile governabilità che a sua volta rende centrale e virulento il ricorso delle classi dominanti alla propaganda e alla manipolazione e a tutte quelle tecniche che rendano continuabile l'accumulazione, costi quel che costi. Lo inquadriamo in questo senso, rifletteremo anche sulla centralità, tanto materiale quanto teorica, assunta dai territori in questa fase in cui sviluppo capitalistico, guerre di rapina, nocività crescenti, colonizzazione del pianeta ma anche dell'immaginario e delle interiorità delle oppresse e degli oppressi appaiono come un tutt'uno, tanto terribile quanto fantasmagorico e sfuggente. Come si capisce, i due piani sono per noi intrecciati e anche per questo ci sembrano sospese in questo tempo sia occasioni potenziali che pericoli imminenti. È a parere nostro compito delle critiche radicali costruire, riappropriarci di strumenti utili a pensare, ad agire con il fine della liberazione. Qui e là, in questa prima sezione, troverete anche accenni a vicende di oppressioni specifiche siciliane, storie da ricordare come tutte quelle ancora invendicate. La seconda parte, stiamo parlando appunto di questo opuscolo che si intitola Capitalismo resiliente, uno sguardo siciliano su estrattivismo e nocività del New Green Deal. La seconda parte, dicevamo, è quella più di inchiesta, Qui ci concentreremo su alcuni progetti in corso e in cantiere che modificheranno la fisionomia e gli equilibri ecologici di interi territori, alcuni già devastati. Al tempo stesso, proprio perché la propaganda prepara il terreno materiale delle devastazioni, non tralasceremo neanche qui la critica del suo ruolo nelle vicende raccontate e in alcuni casi chi sono i produttori prêt-à-porter di ideologia al suo servizio. A fare da rumore di fondo all'interezza di questo testo il sentire, ancora prima del consapere, che uno scontro ultimativo tra capitale e possibilità libertarie della frazione occidentale della specie si sta giocando in questi anni densi di avvenimenti, di bombardamenti e di fumi. Il sentire quindi che è più che mai imprescindibile. L'affrontare innanzitutto tra le minoranze agenti, poi chissà, l'effetto ottico e polmonare dei fumi che inquinano i corpi e le menti per scorgere nuovi potenziali punti di appoggio dello sguardo, grazie ai quali sovvertire gli avvenimenti già decisi e immaginare una vita radicalmente altra e possibile. Bene, su questa band che stiamo ascoltando in sottofondo, che sono i Vice Squad, band inglese, anche prima durante l'intervento abbiamo ascoltato altre band sempre inglesi come gli X-Ray Specs, ma comunque ora così lasciamo in sottofondo, che probabilmente anche termina il brano, è perché andiamo all'ascolto di questa band statunitense, sempre credo sia una delle cittadine più prolifiche del settore punk hardcore, anarco punk, crust core se volete, che è Portland nell'Oregon, e anche qui solita band che è tuttora esistente, ma che anche i componenti ne fanno parte di altrettante altre band molto conosciute che più volte abbiamo passato in questo programma radio. Comunque noi andiamo ad ascoltarci gli Hellshock dal loro album 2003, anche se poi è stato ristampato in Italia nel 2007 grazie alla Agipunk, e comunque anche successivamente ristampato nel 2017. Comunque questo è il loro album, come dicevo, del 2003, che si intitola Only the Dead Know the End of War, quindi anzi, dato le situazioni attuali europee, proprio solo un morto può sapere della fine della guerra. Comunque andiamo ad ascolto degli Hellshock. We'll be right back. ecco, allora dedichiamo la seconda parte, diciamo, degli interventi parlati della trasmissione a una, la chiamo così, carrellata di iniziative contro la repressione, perché appunto il mese di giugno è caratterizzato da molte iniziative che si terranno. Allora iniziamo da Trieste. Sabato 11 si svolgerà il ballo dell'Antifa presso la Casa del Popolo di Sottolongera, appunto a Trieste. Questo ballo dell'Antifa è organizzato dal collettivo Tilt, Resistenze Autonome Precarie. Si tratta di un concerto benefit, tra gli altri ci sono band come Piccola Giunta, Corpi Contundenti, Minoranza di Uno, L'Ordegno e altri. E allora questa iniziativa è importante perché si tratta di una iniziativa benefit per 8 compagne e compagni antifascisti che sono, dovranno sostenere un processo. La prima udienza è appunto lunedì 13, un processo per i fatti che sono avvenuti il 24 ottobre 2020 a Trieste in Piazza Libertà. Allora, che cosa è successo quel giorno? Praticamente una microscopica sigla fantasma di fascisti e nazisti, attiva peraltro solo su Facebook e sui cartelloni pubblicitari, ha organizzato in maniera provocatoria una manifestazione dai toni apertamente razzisti e fascisti proprio in Piazza Libertà, che è la piazza dove ricordiamo che da un bel po' di tempo l'associazione Linea d'Ombra, ma comunque e anche altre individualità, prestano così aiuto, diciamo, cercano di aiutare le persone migranti che giungono lì dall'inferno della rotta balcanica. Appunto, quindi il scegliere di andare proprio in quella piazza lì da parte dei fasci e dei nazi aveva un intento chiaramente provocatorio. Molte voci così anche democratiche, diciamo, si erano levate per dicendo che era comunque una cosa inopportuna e che chiedendo, diciamo, che non venisse autorizzata. E in realtà la questura ha autorizzato molto tranquillamente questo raduno nazista in quel luogo sensibile, diciamo, della città, e quindi i solidali e le antifasciste e gli antifascisti sono andati in piazza numerosi per proprio impedire questo raduno nazista con i propri corpi e le proprie voci. E ci sono stati, insomma, quindi c'è stata un'interposizione e ci sono stati una reazione scomposta da parte degli sbirri con cariche, pestaggi, persone finite all'ospedale tra i compagni e le compagne. E come se non bastasse, poi diciamo che la procura ha fatto una scrematura, c'erano 58 indagati e poi sono stati selezionati questi otto compagni e compagni che subiranno il processo, la prima udienza proprio il 13 di giugno, lunedì 13 giugno. Allora questo ballo dell'Antifa, appunto questo concerto benefit, è importante perché non lascia da sole le persone, crea momenti di socialità solidale che sono importanti, e poi perché è utile anche a tirar su dei soldi che chiaramente quando si ha a che fare poi col mastodonte giudiziario i soldi non bastano mai, e quindi è una cosa molto importante. Quindi ripeto, per chi avesse voglia di partecipare, vi invitiamo a partecipare numerosi. Allora, il ballo dell'Antifa, concerto benefit, organizzato dal collettivo Tilt, Resistenze Autonome Precarie, si svolgerà sabato 11 giugno a partire dalle ore 15, diciamo, apre il tutto alle ore 15, i concerti poi inizieranno alle 17.30, presso la Casa del Popolo di Sottolongera, in via Masaccio 24-26 a Trieste. Miracle Cadaver, my ballad. Punk rock track, speed metal track, loud. Mosh pit, EDM, boom bam loud. Boom by yeah, like Sean Price now. Jump up, get your hands ready now. Click, clack, get your bone cutter now. Who's up, it's a renegade stomp. Who's up, coming out with a bass drop. Not enough clap, put another box in a rack. I'm getting out, reason for an every track. Jump on the basement, never looking back. Stack rhymes with the contras back in effect. Suck a bit, maniacs, gotta rack, click, clack. Raining a train, yeah, now click, clack. Cutting the wire, bolt, gotta click, clack. Bolt, gotta click, clack. Rock team on attack. Through the darkness, dead end tunnels, empty highways, we break away. Through the silence, sound of sirens, our voice stands, our break away. Through the darkness, dead end tunnels, empty highways, we break away. Through the silence, sound of sirens, our voice stands, our break away. There's a whole lot of more to the dance of the crocodile band. But all for one, we got a super ball awesome. We take it along. Look around now. Don't get a word, no cynic, no critic. No copycats, no tricks, no gimmick. Wait a minute, you have to deal with it. Better run from the city, cause we know no limit. I get the cage when it gets so system. No lines and rhythms. We won't miss you, hey, but at least we are here to rock. Knock, knock on your door, I'm a rock from the block. Suck a beast, maniacs, gonna rock, click, clack. Ready now, trend, yuck, now, click, clack. Got in the one, bone, gotta click, clack. Bone, gotta click, clack, rock, team on the deck. Through the darkness, dead end tunnels, empty highways, we fade away. Through the silence, sound of sirens, some will stand, some will break away. Through the darkness, dead end tunnels, empty highways, we fade away. Through the silence, sound of sirens, some will stand, some will break away. Ecco, sempre sabato 11 giugno, questa volta però a Treviso, ci sarà, al Tribunale di Treviso ci sarà un'altra udienza del processo a carico del compagno Juan Sorroque, accusato di aver posizionato due ordigni presso la sede della Lega di Villorba, appunto vicino a Treviso, nell'agosto 2018 e per questo processato dallo Stato per attentato con finalità di terrorismo e strage. E allora, in occasione di questa udienza ci sarà un presidio solidale con Juan contro lo Stato e i suoi aguzzini. E poi, sempre diciamo nelle settimane seguenti, a seguire, venerdì 17 giugno a Lecco, presso il centro di documentazione anarchico L'Arrottino, e si svolgerà un'iniziativa contro il 41 bis e in solidarietà ad Alfredo Cospito e a tutti i compagni prigionieri. E sempre contro il 41 bis e contro ogni prigione ci saranno delle iniziative interessanti in Sardegna. E allora, poiché il 27 giugno si terrà presso la Corte di Cassazione l'ultima udienza del processo Scriptamanent e poiché lo scorso 5 maggio il compagno Alfredo Cospito, imputato in questo processo, è stato sottoposto al regime di 41 bis e trasferito dal carcere di Terni al carcere di Bancali, le compagne e i compagni sardi organizzano per sabato 25 giugno, nel tardo pomeriggio, un'iniziativa itinerante in piazza Tola a Sassari e poi domenica 26 giugno dal pomeriggio un presidio sotto al carcere di Bancali. Appunto l'incipit diciamo di questa iniziativa recita: l'inferno carcerario è stato costruito dagli esseri umani e dagli esseri umani può essere distrutto. solidarietà internazionale con Alfredo e tutte le prigioniere e i prigionieri anarchici. Allora, su queste iniziative solidali contro la repressione che colpisce in particolar modo gli anarchici, volevo leggervi un contributo, una lettera che Toby Sean ha scritto a Dan Baker, anche noto come Ali Shar. E poi magari dico due cose, chi è Toby Sean e chi è Dan Baker, ma intanto leggo la lettera perché parla proprio di Anna Beniamino, Alfredo Cospito e Juan Soroque. Allora, la lettera è del 13 maggio 2022 e si intitola Come Mercurio, lettera per Dan Baker, anche noto come Ali Shar. Ali Shar, ho udito il tuo messaggio di solidarietà, grazie, mi ha dato forza. Ritorno l'energia con questa lettera aperta, sperando di creare una breccia in queste mura, ancora una volta. In un turbinio di piume nere e di saggezza lunare, uno stormo di corvi ha consegnato la tua dichiarazione e quegli astuti corvi mi hanno raccontato della tua situazione in un carcere di media sicurezza di Memphis. Voglio aggiungere elementi al dialogo e parlare di tre compagni anarchici imprigionati in Italia. La prima è Anna Beniamino, che sta scontando una condanna a 17 anni in attesa della sentenza definitiva prevista a giugno per l'inchiesta Scriptamanent in regime di alta sicurezza nel carcere di Rebibbia a Roma. Il caso Scriptamanent ha comportato l'arresto di 7 anarchici accusati di associazione sovversiva di stampo terroristico e di una serie di azioni dirette rivendicate dalla Federazione Anarchica Informale. Una farsa assurda, dalle conclusioni oscene. Il secondo compagno che voglio rammentare è Alfredo Cospito, rinchiuso sin dal 2012 per il caso Adinolfi, per il quale ha ricevuto una condanna a quasi 11 anni e sta adesso attendendo conferma di un'altra sentenza a 20 anni per l'operazione Scriptamanent. Alfredo è stato recentemente colpito dall'applicazione del regime di 41 bis, può ricevere una sola telefonata al mese, 10 minuti, oppure una sola visita dei familiari con vetro divisorio e videoregistrazione del colloquio. Può passeggiare all'aria con un massimo di altri 3 detenuti che devono essere approvati dall'amministrazione carceraria. Non può ricevere libri, ha la censura sulla corrispondenza e una lista ristrettissima di oggetti che può tenere in cella. Diversi organismi internazionali hanno condannato il regime di 41 bis come forma di tortura. Il terzo compagno, che voglio ricordare, è Juan Soroque. Nella giornata internazionale del detenuto anarchico a lungo termine, che cade proprio l'11 giugno, Juan affronterà a Treviso un'udienza del processo che lo vede imputato per un attacco contro la sede della Lega Nord, rivendicato dalla cellula Aris Azimielakis Black International 1881-2018 e avvenuto nell'agosto del 2018. Juan, che sta scontando condanne per altri reati, rischia un'altra lunga condanna in quest'altro processo politico. Come tutti gli anarchici imprigionati nel mondo, questi tre compagni meritano il sostegno e la solidarietà che il movimento anarchico internazionale può offrire loro. E continua Toby Sean. La repressione che affrontiamo è la prova che la nostra lotta ha validità e il nemico è minacciato e reattivo. Anche se siamo rinchiusi, le nostre vite continuano. Il nostro mondo interiore è ancora infinitamente ricco e variegato nell'affrontare la nostra esperienza. Facciamo tutti parte dello stesso continente perduto e scopriamo la libertà nei nostri cuori indistruttibili. Ali Shar, con le nostre lettere creiamo un ponte atlantico sul quale poterci incontrare tutti e imparare gli uni dagli altri. Noi anarchici camminiamo negli stessi cortili, udiamo le stesse chiavi e porte che sbattono, ma discutiamo e facciamo piani e non ci arrendiamo. I dialoghi tra di noi sono importanti, almeno quanto quelli che intratteniamo con chi sta fuori dal carcere. Ti racconto un po' di mie notizie. Forse a causa della solidarietà dei compagni e delle compagne fuori, fatto sta che sono riuscito ad avere un po' di lettere, cartoline e un libro. Sara, Prison Memoir of a Kurdish Revolutionary, di Sakine Kansitz. Non so chi mi abbia mandato il libro, ma li ringrazio di tutto cuore. Ho ricevuto diverse lettere dalla Croce Nera di Filadelfia, spedite nel corso degli ultimi due mesi, un paio di cartoline dalla Croce Nera di Brighton e un pacco da altre organizzazioni di Londra. Tutto questo e qualche altra lettera è arrivato negli ultimi giorni. Ancora molta corrispondenza non mi è stata consegnata, come pure libri. La G4S, multinazionale britannica di sicurezza privata che gestisce carceri e centri di detenzione in tutto il mondo, mente, nonostante tutto ciò, sostenendo che non ho posta e che i libri non sono ammessi. In carcere a Bristol mi era arrivata una copia di Pestifera la mia vita di Claudio Lavazza, prima che l'amministrazione mettesse la censura sulla posta. Raccomando la lettura del libro di Claudio Lavazza, leggerlo è come ricevere un abbraccione da un caro amico che ti ha aiutato a evadere. Mentre ero a Bristol, i compagni italiani mi hanno mandato un calendario lunare che mi è stato proibito. Tutti gli anarchici dovrebbero fare conoscenza col piacere della luna nera per un alfabeto in fiamme che la penna si intinga nel vuoto. Eric King, libero. Liberi tutti, libere tutte. Toby Shawn. Allora, questa era così questa lettera che il compagno inglese Toby Shawn ha scritto a quest'altro compagno Dan Becker, anche lui insomma è prigioniero, e nello specifico questo Dan Becker è stato arrestato ed è prigioniero dal 2021 in quanto come combattente a fianco delle milizie auto-organizzate curde. Sì, ho voluto leggerla perché ci sono, così è come dire che ci sono dei rimandi, che le cose si tengono una con l'altra. Anche questo saluto finale, Eric King libero, si riferisce a un ulteriore prigioniero anarchico statunitense. Statunitense, non l'ho detto, come Ben Baker, che anche lui è si trova imprigionato da 20 anni. E vabbè, dico due cose anche su Toby Shawn, che è un anarchico, come dicevo, del Regno Unito, appunto inglese. Praticamente lui nell'ottobre del 2021 è stato condannato dalla corte di Bristol a 3 anni e 9 mesi per reati riguardanti sostanze stupefacenti, dopo che giorni prima erano cadute le accuse di terrorismo. E praticamente, quindi, prima è stato accusato di attraverso applicando, diciamo, il nuovo Terrorism Act, che finora non aveva mai colpito, diciamo, gli anarchici. E attraverso appunto l'applicazione di questo Terrorism Act era stato accusato di praticamente di aver offerto servizio ad altri per accedere a pubblicazioni terroriste e di aver raccolto fondi con scopi terroristici e possesso di informazioni eventualmente utili a fini terroristici, e in quanto praticamente Toby Shawn è tra gli amministratori del sito web anarchico 325nostate.net. E vabbè, quindi ci racconta Toby Shawn che in una lettera del gennaio 2022, che è stato rapito sotto la minaccia delle armi dall'unità antiterrorismo durante l'operazione E-Dream, con la quale per la prima volta appunto viene usata la legislazione antiterrorismo nel Regno Unito contro gli anarchici. La repressione aveva come obiettivo il gruppo anarchico e di critica e pratica collettivo 325, il sito relativo, e cioè sostanzialmente i progetti di controinformazione, le iniziative di solidarietà con i prigionieri e la nuova critica anarchica alla singolarità tecnologica e alla quarta e quinta rivoluzione industriale. Poi appunto queste accuse di terrorismo cadono e lì, come un coniglio dal cappello, tirano fuori praticamente così la detenzione di questi non ben precisate sostanze stupefacenti, che tra l'altro erano state ritrovate in un rastrellamento, insomma, in vari ambienti in cui ci sono state queste retate. E vabbè, questo per sapere qualcosa in più di questo compagno che ha steso questa lettera in cui si nominano Anna, Alfredo e Juan. Bene, questi adesso che abbiamo ascoltato e che per un po' anche in sottofondo erano i croati Nulla Osta, mentre prima dell'inizio dell'intervento avevamo ascoltato un brano dei Moscow Death Brigade, band ovviamente russa, esattamente di Mosca. Ora invece andiamo all'ascolto di questo, di un brano, forse due, di uno split 7 pollici vinile, che è uscito nel, diciamo ormai lontano, ma neanche tanto, 1999, cioè neanche tanto rispetto a tante altre cose che mettiamo qui, ancora molto più anziane. E noi ci ascoltiamo, insomma, questa band australiana, loro sono i Rupture. Ed è uno split 7 pollici assieme ad una band tedesca che sono i Flackenbrand, ma noi ci ascoltiamo appunto questi Rupture direttamente dall'Australia, da questo 7 pollici datato 1999. Women giving me orders. We'll be right back. Ecco, 21:20, siamo quasi agli sgoccioli di The Rings Magnetics. Allora, dopo aver ricordato le iniziative solidali con le antifasciste e gli antifascisti di Trieste, con Juan Sorroque, con Alfredo Cospito, e concludiamo, diciamo, questa carrellata su, appunto, le mobilitazioni contro la repressione, ricordando anche quella di mercoledì 15 giugno sotto il Tribunale di Milano. Ci sarà, appunto, questo presidio solidale in occasione della prima udienza che ai danni di un compagno della Assemblea Popolare di Busto Arsizio, un'Assemblea Popolare che ha fatto delle cose importanti relativamente anche alla lotta no Green Pass. Allora, che cosa succede? Succede che il Tribunale di Busto Arsizio ha chiesto la sorveglianza speciale di 3 anni per questo compagno. Ricordiamo che la sorveglianza speciale è una misura di prevenzione volta a tutelare la cosiddetta pubblica sicurezza e viene richiesta non sulla base di reati specifici, ma sulla base di sospetti, di condotte sostanzialmente. Consiste nell'isolamento sociale dell'individuo colpito e può prevedere restrizioni fastidiose come il rientro notturno, il presentarsi in caserma ogni qualche giorno e anche il sequestro della patente. Poi c'è il divieto di partecipare a qualsiasi evento pubblico e a qualsiasi manifestazione politica. E le motivazioni della richiesta della procura, in questo caso di questo compagno dell'Assemblea Popolare di Busto Arsizio, ma anche negli altri casi, si basano sulla costruzione di una presunta pericolosità sociale dell'imputato. In questo caso il compagno viene praticamente individuato come leader nel corso delle manifestazioni non autorizzate, tra virgolette, dello scorso autunno. Appunto, si riferisce alle manifestazioni no Green Pass. E vabbè, l'Assemblea Popolare di Busto Arsizio ribadisce chiaramente l'assoluta orizzontalità e quindi fa cadere questo discorso del leaderismo, assoluta orizzontalità non solo come metodo organizzativo ma anche come orizzonte politico. E questo, torno a dire, che questo presidio solidale sarà mercoledì 15 giugno alle ore 10 sotto il Tribunale di Milano. Bene, fine dello spazio relativo, appunto, alle iniziative contro la repressione. Però in coda, in 2 minuti, vi dico anche un'iniziativa che si svolgerà qui a Udine per chi non potesse partecipare a tutte quelle che abbiamo nominato. Allora, nello spazio autogestito di Via De Rubeis, sia sabato 11 che domenica 12, ci sarà 1 a 2 giorni con la critica Università della Strada. Allora, praticamente sabato dalle 17:30 verrà presentata una mostra e verrà presentato il progetto CUDS, appunto, Critica Università della Strada. E l'iniziativa si intitola Per la strada con l'armata nera e fa parte di questo tour che la Critica Università della Strada sta facendo, appunto, in quest'anno. Invece domenica 12 ci sarà un laboratorio sulla comunicazione dal basso, su un tema scelto dal gruppo di lavoro e basato sulla realtà territoriale. Quindi chi, appunto, rimane a Udine è caldamente invitato a partecipare. Io per oggi vi saluto e lascio la parola alla regia e ci sentiamo prossimamente. Mandi a tutte e tutti. Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. There were some fighters and legs to kill. Now there's a bandit, stop on the hill. Open your windows, open your doors. Open your eyes to a freedom of course. We'll be right back. man's cash. Some of you smoke me the last. Bene, sulle note di questa Viva la Revolution degli Addicts, direi che anche siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Jardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, e dalle ore 20 alle 21:30. Ricordo che questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, e se volete scriverci potete farlo tramite posta elettronica scrivendo liberetutti@autistica.org, ripeto liberetutti@autistica.org, oppure potete farlo in forma cartacea intestando ad Associazione senza sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto Associazione senza sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre questa puntata di Jardins Magnetics, ma anche quelle scorse, potete andare in cerca del blog jardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ricordo nuovamente questo, jardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì, sempre in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21:30, e vi lascio con un brano. Ecco, no, perché ho dovuto dare una sbirciata perché sta per partire alla fine di questa Viva la Revolution degli Addicts, ci sarà un brano classico dei GBH. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì.